Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. In attesa della lettera, arriverà oggi, arriverà stasera, arriverà domani mattina, chi lo sa, ce ne faremo una ragione, ma nel senso che la lettera che Bruxelles deve mandare all'Italia dopo aver guardato l'impalcatura della nostra manovra e quindi della legge di bilancio, sappiamo che le obiezioni, l'abbiamo spiegato molte volte, riguarderebbero soprattutto le misure una tantum e in particolar modo, o al di là di queste, il fatto che il deficit strutturale, quindi il deficit al netto della congiuntura economica, continuerebbe a crescere, e soprattutto dubbi sulle coperture. Vedremo poi cosa ci sarà in questa lettera. Ma dicevo, al di là di questo, noi parleremo della manovra, perché nel fine settimana si sono alternate varie novità, alcune smentite, penso per esempio alle multe, i comuni hanno detto di no, vi potrebbe essere una moratoria a quel punto solo sugli interessi per queste multe, ma anche e soprattutto per quello che riguarda la possibilità di avere la cosiddetta lotteria fiscale. La lotteria fiscale è, da questo punto di vista, un esperimento già studiato in tutto il mondo. Devo dire che la prima volta che vidi una forma di lotteria fiscale fu in Cina 10 anni fa, in cui sostanzialmente lì era un po' diversa. Tu, se chiedi la ricevuta fiscale per qualunque acquisto, partecipavi a una specie di gratta e vinci, questo per invogliare i cinesi a chiedere la ricevuta fiscale. Ma dicevo, nel caso nostro invece trae più spunto da un paese europeo, che è il Portogallo, che ha avuto in tema di, e ne parleremo con chi fa da consulente e da consigliere economico giuridico alla Presidenza del Consiglio, è un tributarista, si chiama Andrea Parolini, docente di diritto tributario alla Università Cattolica Piacenza. Ma studiando il caso portoghese è venuto fuori che il gettito in Portogallo è aumentato in maniera molto considerevole proprio da quando si è legato a una lotteria, e poi però anche a forme di disincentivo il lato fiscale. Sostanzialmente in Cina, ripeto, se tu banalmente mangi in un ristorante ricevi lo scontrino con un pezzo di questo scontrino che è simile al gratta e vinci. Si vince però al massimo l'equivalente di qualche centinaio di euro. In Portogallo invece ha introdotto la fattura della fortuna. All'inizio venivano date in premio delle automobili, poi il denaro, e una vera e propria lotteria per favorire il rispetto dell'obbligo di emettere fatture in tutte le transazioni commerciali. Secondo l'Agenzia delle Entrate portoghese, la lotteria ha avuto risultati clamorosi. Il primo lotto di fatture equivaleva a una spesa di circa 2 miliardi di euro. Si è arrivati a più che raddoppiare, a 5 miliardi e quasi a 6 miliardi l'equivalente dopo che è stata introdotta la lotteria. Ebbene, ne parleremo per capire se vi sarà anche da noi, come l'hanno chiamata in Portogallo, la fattura della fortuna. Parleremo poi, anzi, prima ancora, di un tema che ci sta molto a cuore, il nostro settore agroalimentare. Il trattato CETA, quello tra Europa e Canada, bloccato dai valloni. Io non ho ancora capito bene cosa abbiano i valloni contro questo trattato, a parte le battute lo racconteremo, però questo rappresenta un problema enorme, perché quello è un mercato di sbocco importantissimo per il nostro Made in Italy agroalimentare e vitivinicolo. Faremo anche il punto però sui danni che continuano a perdurare dall'embargo in Russia. Io non entro nei temi di politica estera, sappiamo che fu spinto anche dagli Stati Uniti dopo il contenzioso con l'Ucraina. Faccio solo notare che alcuni paesi hanno danni pari a zero, altri paesi hanno danni enormi da questo embargo. Nel caso specifico l'Italia, che era il primo paese dell'area europea per esportazione di prodotti agroalimentari proprio in Russia, di fascia alta e altissima, per cui va bene essere tutti uguali nella linea di politica estera, però poi non è possibile che alcuni ne paghino le conseguenze e altri per nulla. È facile fare così, e di questo parleremo, così come parleremo anche della borsa, come sempre, e della vicenda Monte dei Paschi. Ora io so già che c'è chi si sta mangiando le mani per non aver comprato il titolo in questi giorni. Oggi guadagna il 31%, e quindi adesso facciamo anche il calcolo, ma è tornata a 1 miliardo di euro di capitalizzazione, al livello più alto da 3 mesi a questa parte. a 35 centesimi di euro per azione. Questo perché? Perché stasera, cioè, oggi c'è il CDA, domani verrà presentato il piano industriale, c'è anche molta speculazione. Comunque, ripeto, capitalizzazione vicina al miliardo di euro e valore praticamente raddoppiato nell'ultima settimana, da quando lunedì ci sono state le prime indicazioni da parte di Morelli e anche le prime ipotesi di un secondo piano, il piano di Corrado Passera. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Visto che parlavo del Monte dei Paschi che guadagna il 31%, segnalo che il secondo miglior titolo è sempre bancario, Unicredit più 4, Pop Emilia Romagna più 3 e 30 come Telecom Italia, Ubibanca più 3%, Mediobanca più 2,80, Luxottica più 2,30, Unipol più 2,20 come Intesa San Paolo ed Exor, il 2% lo guadagna Mediolanum e Unipol 6. Campari perde il 2, Snam l'1,5 come A2A, Ferragamo l'1,30 e Leonardo Finmeccanica lo 0,80%. Complessivamente Milano guadagna lo 0,90, Parigi lo 0,50 e Francoforte lo 0,60, Londra perde lo 0,35%, il Dow Jones guadagna mezzo punto percentuale. Dicevo 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le notizie in breve. Allora, mi chiedete dell'euro. Sì, l'euro sappiamo che dopo le parole di Mario Draghi si era indebolito, è sempre a quota 1,08, guadagnato qualcosa, comunque sempre sotto quota 1,1. Invece, partendo come sempre dalle notizie di carattere internazionale, alcuni di voi avranno letto, immagino, sui giornali nel fine settimana della mega operazione in cui il colosso gigante delle telecomunicazioni americano AT&T ha acquistato la major americana Time Warner, quella che produce, che ha come proprietà anche gli studios di Hollywood, poi ha la proprietà della CNN, di HBO. 84 miliardi e mezzo di dollari, sono circa 109 miliardi incluso il debito, da pagare parte in denaro, parte in titoli. L'accordo, stante le dichiarazioni, insomma, è la perfetta unione tra due compagnie con punti di forza complementari che possono portare un approccio fresco al lavoro nell'industria dei media e della comunicazione per i clienti. Comunque è la fusione, molte volte descritta in questi anni, tra chi fa telecomunicazioni, quindi ha i cavi, ha i binari, come si diceva in gergo, le infrastrutture, e ci fa viaggiare però sopra anche i contenuti spesso, ma soprattutto le infrastrutture, e la parte contenutistica vera e propria, perché Time Warner, oltre che produrre film, appunto, possiede sia la CNN che HBO. Tra l'altro, questo avvicina AT&T allo storico competitors, come dicono gli inglesi, ossia Verizon, che ha acquisito il gruppo Internet American Online, AOL, ed è in trattative per comprare Yahoo. Trattative che, stante le dichiarazioni di Verizon, dovrebbero concludersi e portare l'acquisizione entro la fine del 2017. È entrata anche nel dibattito della campagna elettorale questa notizia, perché Donald Trump ha detto: ho qualche dubbio sull'operazione, se sarò letto non approverò l'accordo perché determina un'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di pochi. Il dubbio principale è che mettere insieme le attività dei due gruppi farà lievitare i prezzi e ridurrà la scelta per gli americani. Sempre il dubbio che si ha quando c'è una grande operazione. Su questa maxi operazione, appunto, da 108 miliardi di dollari, se si includono anche i debiti, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS. Oggi la firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Alessandro Platerotti. La guerra delle comunicazioni è tornata nel vivo. Il tentativo di fusione lanciato da AT&T su Time Warner, un'operazione da oltre 86 miliardi di dollari, una delle più alte nella storia delle telecomunicazioni, ha riacceso soprattutto i riflettori sulle occasioni e sulle opportunità, non soltanto guardando avanti, ma anche quelle guardando indietro, e questo riguarda soprattutto noi italiani. È bene ricordare che AT&T, il colosso delle telecomunicazioni storico nel mercato americano, la prima compagnia telefonica degli Stati Uniti, quella da cui partirono poi le Baby Bell, beh, insomma, due volte si è affacciato sul mercato italiano. Stiamo parlando di Telecom Italia. In due occasioni AT&T si era fatta avanti con noi per cercare un'alleanza strategica proprio con Telecom Italia, trovando però la porta chiusa. Lo fece prima con Tommasi di Vignano, all'epoca subito dopo la privatizzazione della compagnia, e poi nuovamente con Marco Tronchetti Provera, l'ultimo che era arrivato a un passo da un accordo strategico con AT&T, che avrebbe portato anche oggi Telecom Italia nel grande salotto internazionale delle comunicazioni. Fu proprio Tronchetti che, costretto a vendere dopo le polemiche, lo scandalo delle famose dossier illegali, beh, insomma, cercò di chiudere con AT&T, ma fu respinto anche là dagli altri azionisti, con scarsa lungimiranza possiamo dire ora, visto che proprio AT&T è diventato un po' l'operatore globale non della telefonia, ma dell'integrazione fra televisione, telefono, internet, streaming e tutte le altre tecnologie della comunicazione, che proprio oggi fanno la differenza tra società che sopravviveranno alla rivoluzione del web e società che spariranno. Certo, oggi Telecom Italia ha un management forte a guidarla, ha nuovi azionisti da cui però ci si aspetta dei passi concreti per rafforzare la compagnia e non pensare soltanto agli interessi della Francia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo avanti con le altre notizie e andiamo alla Brexit, anzi ancora solo queste, poi parliamo anche di manovra. Una nota a chi scrive al 349-238-6666. Guardate che questo si chiama focus economia, non si chiama tutti convocati. C'è uno che mi sta massacrando, un paio che mi stanno massacrando, di che il gol della Juve è regolare, sei un milanista bastardo. Allora, intanto è completamente fuori strada, ma completamente fuori strada. Le potrei ricordare il 5 maggio del 73, ma forse non era nato. E poi possiamo parlare di economia. Andiamo avanti con l'economia. Allora, qualche milanista forse questa la capisce. Andiamo avanti con l'economia, dicevo, ci spostiamo in Gran Bretagna perché sono molto tesi i rapporti. È circolata voce poco fa che Theresa May, la premier britannica, starebbe pensando addirittura a un abbattimento radicale, brusco, della tassazione per le corporate, per le grandi società in Gran Bretagna, che già a livelli bassissimi, perché è al 20%, in quei casi portandola al 10%. Come risposta a che cosa? Le tensioni e anche l'accoglienza molto fredda che è stata riservata da May la settimana scorsa nel vertice del Consiglio europeo, quando Hollande disse, insomma, la Brexit deve essere fatta e non ci piegheremo a nessun ricatto, e lo stesso Juncker ha accolto in maniera molto freddina l'intervento della May, ma anche e soprattutto a quanto è emerso nel fine settimana. Il quotidiano britannico Observer ha scritto che sull'Observer è intervenuto il capo della British Bankers Association, che serve un po' come il nostro presidente dell'ABI. Lui si chiama Anthony Brown, è il presidente dell'Associazione Britannica delle Banche, e ha detto: attenzione, la maggior parte delle grandi banche britanniche si stanno preparando a trasferirsi fuori dal Regno Unito già all'inizio dell'anno prossimo per i timori crescenti generati dalla Brexit, mentre gli istituti più piccoli stanno approntando piani per farlo già prima di Natale. E poi Brown ha intervenuto, i banchieri e il mondo delle banche, il mondo anche bancario in Gran Bretagna si era schierato la stragrande maggioranza dei casi per il no alla Brexit. Ha detto: attenzione, il dibattito pubblico e politico al momento ci sta portando nella direzione sbagliata. Allora, 349-238-6666 per sms, whatsapp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, scatenato i milanisti. Ovviamente andiamo a parlare della manovra in attesa della lettera di Bruxelles, che quantomeno è slittata stasera, poi vediamo se è arriverata stasera o domani mattina. Allora, appunto, in attesa della lettera, oggi a definirsi ottimista è stato il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, che ha detto: io sono assolutamente ottimista perché non si sfora nessun patto con l'Unione Europea, la flessibilità è giusta, io ritengo che avere più flessibilità per i migranti e i costi del terremoto sia un diritto giusto per l'Italia. E poi il ministro Delrio, intervenuto all'assemblea di Confitarma, ha detto: da parte dell'Unione Europea c'è una velocità nell'esaminare i documenti ed un'attenzione maniacale sui decimali. Non c'è la stessa velocità e attenzione nel promuovere l'economia reale, quindi occupazione e investimenti. Se vi fosse la stessa velocità e attenzione, sarebbe straordinario. L'Europa è casa nostra, quindi io dico sempre che noi non dobbiamo polemizzare con l'Europa, perché siamo noi. È come dire, uno non è che si lamenta di casa sua quando è il marito o la moglie, è casa sua, se è tenuta male dipende anche da te, diciamo, no? Però ci sono dei giorni in cui uno vorrebbe che le cose procedessero diversamente, e noi vediamo che abbiamo una velocità di risposta immediata su alcune questioni, un'attenzione maniacale su alcune questioni di decimali, mentre invece non abbiamo un'attenzione altrettanto maniacale nel promuovere l'economia reale, l'occupazione reale, gli investimenti reali. Se avessimo la stessa velocità nel promuovere gli investimenti che abbiamo nell'analizzare i documenti, credo che sarebbe veramente straordinario. E questo dipende dal fatto che abbiamo bisogno di un'Europa, e l'Italia fa questa battaglia in Europa sul suo bilancio, lo fa per l'economia reale, lo fa per l'occupazione reale, non la fa ancora una volta per il gusto di alzare la voce o fare capricci. E poi, sempre a margine dell'assemblea di Confitarma, sulla lettera dell'Unione Europea è intervenuto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Ha detto in maniera molto secca: insomma, stiamo parlando di piccoli decimali. Adesso vediamo, diciamo, quando arriva la lettera. Mi sembra che parliamo di piccoli decimali e non mi sembra che ci siano grandi preoccupazioni a livello di governo. L'elemento è quello che abbiamo citato più volte: occorre definire, diciamo, un nuovo paradigma di ragionamento, cioè un patto della crescita e della stabilità. La crescita è la precondizione della stabilità. Vedete, negli Stati Uniti d'America, dove c'è convergenza tra politica monetaria e politica economica, tutte e due rivolte alla crescita, gli Stati Uniti crescono il doppio dell'Europa, e quindi il modello di ragionamento per noi è chiaro: prima individuare che cosa vogliamo definire in termini di effetti sull'economia reale, poi individuare strumenti, poi risorse, poi intervenire sui saldi di bilancio, che mi sembra un percorso un po' diverso da quello che è il patto di stabilità, che molto spesso parte dai saldi di bilancio prescindendo dagli effetti sull'economia reale. Così, appunto, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia al microfono della nostra Alessandra Schepi. Si è poi chiesto all'Europa di essere più coraggiosa, meno dogmatica e ragionieristica. Sullo stesso tenore anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che è intervenuto oggi invece a margine del forum di Conftrasporto. Ha detto sulla lettera europea: l'impasse sarà superato. Convinto che poi si supererà anche questo impasse, e certamente poi il risultato sarà una approvazione. Perfetto. Quindi non ci sarà un rischio di una manovra correttiva? No, io spero e mi auguro proprio di no. Nelle infrastrutture, nei trasporti e nella logistica abbiamo accumulato ritardi e inefficienze che sono alla radice della malattia da bassa crescita e che ci affligge ormai da più di 20 anni. Con ricadute anche particolarmente negative sul mezzogiorno, disconnesso dal nord Italia e quindi dal resto del paese. Tra il 2007 e il 2015 gli investimenti infatti si sono ridotti del 30%. Senza investimenti l'Italia si ferma. Per via delle inefficienze logistiche noi perdiamo circa il 2% del PIL, pari a 34 miliardi di euro all'anno. Questo è certamente un autogol per la crescita che non possiamo assolutamente permetterci. Sì, 34 miliardi stima la Confcommercio la perdita per le infrastrutture inadeguate nella logistica. Lo dico perché stiamo ragionando tutti da mesi, da alcuni anche da anni, sul salto che deve fare il nostro modello industriale, il progetto che è anche un progetto economico di Industria 4.0, la rete come grande opportunità, i portali come grandi vetrine per i nostri prodotti. Attenzione, tutto questo si fa se hai la logistica, nel senso che tu vendi sulle varie piattaforme, non voglio far nomi, ma insomma quelle sono, purtroppo non c'è nessuna di italiana, ma se poi hai una logistica che ti permetta di spedire la merce e anche di riaccoglierla qualora il cliente la rimandasse indietro, cioè la logistica deve essere aumentata nella società e nell'industria 4.0. magari domani torniamo sul caso del porto di Genova, allucinante, nel senso che lì non riescono a far entrare le Super Panamax, cioè queste navi enormi, perché non riescono ad avere i soldi per la banchina. Ma dico, insomma, la logistica è parte integrante dell'industria 4.0, non è solo internet, web e acquisti online, devi avere anche la logistica. Allora, il calcolo lo ha fatto il responsabile del centro studi di Confcommercio, Mariano Bella, dice: o recuperiamo questo fronte, visto che la Bulgaria ha un aumento del 18% nel settore marittimo dell'autotrasporto. Invece in Italia in 12 anni le imprese del trasporto su gomma hanno perso oltre il 60% dei traffici, con un incremento del 700% a favore di quelle dell'est Europa, senza neanche controlli, aggiungo io, delle volte sui camionisti che arrivano dall'est Europa, e altre volte con dei prezzi oggettivamente quasi da dumping, quindi da sottocosto interno. E tra l'altro le imprese italiane di trasporto terrestre e via condotta hanno fatto registrare un altro calo del 13% in 6 anni. I difetti strutturali, dicevo, li ha evidenziati Mariano Bella, al microfono il nostro Andrea Ferro. Perché siamo al 24esimo posto su 26 paesi negli ultimi 3 anni? Perché i nostri imprenditori non sono capaci? Perché i nostri lavoratori non sono capaci? Perché non abbiamo capitale? No, perché abbiamo difetti strutturali che danneggiano la nostra economia: eccesso di carico fiscale, burocrazia, legalità e logistica. Quindi la logistica, i trasporti e la mobilità vanno rilanciati attraverso gli investimenti, c'è poco da fare, per avere una spinta che deriva dalle condizioni fondamentali di produttività. Tutti ci lamentiamo di produttività, come fa a crescere? Con la logistica e con i trasporti migliori. Allora, intanto devo chiedere venia agli ascoltatori, ho commesso un errore imperdonabile, ho detto 5 maggio, era 20 maggio del 73, e quindi chiudiamo anche quella parte lì. Invece, questi dati sulla carenza della logistica italiana, di cui non riusciamo mai a parlare abbastanza, si sposano anche con tutto quello che è appunto il tema del nostro export. Oggi c'è il dato su settembre, sono tornate a crescere le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei a settembre, più 0,5% e più 2,7% rispetto a settembre del 2015. Importazioni invece in marcata diminuzione sul mese e anche sull'anno, meno 8%. Questo vuol dire che il surplus commerciale, cioè l'avanzo che abbiamo tra quanto esportiamo e quanto importiamo, è raddoppiato a settembre 2016 rispetto a settembre 2015, in primo luogo perché è calato l'import, ma anche perché è cresciuto l'export. Siamo a 2 miliardi e 880 milioni di avanzo. Tra l'altro l'incremento è andato bene per beni di consumo durevoli, meno l'energia, un po' più al palo i beni di consumo non durevoli, e in calo i beni strumentali e intermedi, meno 0,2%. Beni di consumo non durevoli sono anche tutto il classico Made in Italy, che noi associamo spessissimo all'agroalimentare e al vitivinicolo. In realtà c'è anche il Made in Italy della meccanica, dei macchinari utensili, non c'è ovviamente della moda. Perché lo dico? Perché ci ha raggiunto in collegamento il presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Per parlare invece non di un successo, fermo restando che siamo contenti di questi dati di settembre, ma di un'ulteriore difficoltà, oltre alla Russia anche il Canada. Le chiedo ancora qualche minuto di pazienza dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. A Allora, sì, sono d'accordo con alcuni che scrivono, guardi che sulla logistica c'è tutto il fronte burocratico che... Avete ragione, anche di quello parleremo. Allora, vorrei parlare invece con Luigi Scordamaglia, che rappresenta il settore alimentare italiano e quindi oltre 385.000 addetti, 54.000 aziende, un settore che ha conosciuto pochissima, quasi nulla crisi, anche negli anni più difficili. Capire perché siete così preoccupati per il mancato o il rischio che si blocchi tutto nell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada. È 5 anni che negoziamo. Ora devo dire che da questo punto di vista tutta l'Europa è d'accordo, tranne la comunità dei Valoni, che vale come gli abitanti del Lazio, se non ricordo male. Cioè, adesso io sono molto rispettoso sia degli abitanti del Lazio che dei Valoni. I Valoni hanno paura per la loro agricoltura e oggi il presidente belga Paul Magnet ha detto la Vallonia non può dire il suo sì oggi. Ma capirai. È evidente che nelle circostanze attuali non si può dare un sì oggi. Da quel punto di vista, cioè, arriveremo anche ai dubbi dei Valloni, però Scordamaglia, che cosa c'è in ballo? Perché siete terrorizzati da sta cosa? Adesso, il Canada è un grande compratore di merci europee e italiane, anche nell'agroalimentare, e quindi... Allora, cominciamo a dire che questo che è successo è la dimostrazione emblematica del fallimento totale del ruolo che l'Europa ha nel commercio mondiale, cioè l'Europa, l'Unione Europea, la Commissione negoziano con pieno mandato di 28 Stati membri un accordo, rispettano il mandato dell'accordo, portano a casa l'accordo con i migliori risultati possibili, perché 99% dei dazi cancellati, 500 milioni di dazi in meno, tutela dei DOP e IGP, inserimento del divieto di evocazione, insomma qualcosa che ci saremmo sognati un po' di tempo fa. Riusciamo a portarlo a casa e cosa succede? 44 Valloni, con tutto il rispetto, per protestare contro il potere dello Stato nazionale, bloccano l'entrata in vigore di questo accordo. Cioè, questo vuol dire che l'Unione Europea, così com'è, cede definitivamente il suo ruolo nel processo di globalizzazione in corso e nella capacità di essere protagonista del commercio mondiale. Quindi non solo danno relativamente al mercato del Canada, che è uno dei più vicini alle nostre esportazioni, ma danno anche strutturale e definitiva dimostrazione che il processo decisionale dell'Europa è un totale fallimento. Senta, una cosa però, allora io devo anche fare l'avvocato del diavolo, perché la Vallonia, che mi sembrava... che ha un Parlamento a 3 milioni di abitanti, sono lo 0,6% della popolazione europea, ha un Parlamento autonomo di 75 membri. Lo scorso 10 ottobre hanno votato contro il CETA, contro l'accordo con il Canada. Sì. Ha posto il veto alla firma da parte del Belgio, quindi se il Belgio non firma non si può ratificare l'accordo. Una risoluzione, tra l'altro, approvata in cui il Parlamento chiede al governo Valloni di non accordare pieni poteri al governo federale. Tra i motivi del no... figurano il timore di un forte aumento delle importazioni di carne di manzo e di maiale dal Canada e i dubbi sul sistema di risoluzione delle controversie tra imprese multinazionali e governi, perché lì vi dovrebbero essere dei appositi tribunali. Ma questi dubbi, questi timori, non li avete anche voi? Sicuramente ci sono stati durante la fase di discussione, motivo per cui nel mandato negoziale dato alla Commissione si è posto, lei parlava di carne bovine, un limite quantitativo molto preciso alla quantità complessiva di carni bovine che può essere importata, e soprattutto si è posto, richiesto ed ottenuto che queste carni che entrano devono rispondere in tutto e per tutto agli standard igienico-sanitari già previsti. No, glielo dico perché Europea. Molti ascoltatori stanno scrivendo al 349-238-6666 con un WhatsApp. Dunque importeremo qualità di M, adesso non voglio grandi Valloni, vabbè, adesso al di là di chi, insomma, non è assolutamente così, anzi, ecco, con... Certo, nella discussione col Canada, il risultato della discussione col Canada è la dimostrazione che tutta una serie di timori che c'erano anche col TTIP di importare derogando gli standard igienico-sanitari della Unione Europea erano infondati, perché tutto quello che si è consentito importare deve essere rispondente agli standard igienico-sanitari. Ma perché allora i Valloni non hanno capito questo? Probabilmente no, e ripeto, il principio è ancora più grave. Lei ci sta dicendo che l'accordo raggiunto prevede che anche la carne, andiamo sulla carne di manzo, di maiale, che noi importeremo dal Canada deve rispondere agli standard europei? In tutto. altrimenti non può entrare, ma non è una novità, è la stessa cosa che stava alla base della discussione del TTIP. Se invece di disinformazione si leggesse con attenzione quello che nel caso del Canada si è portato a casa, ci si renderebbe conto che, ripeto, i vantaggi dalla chiusura di questo CETA sono infinitamente superiori a quelli che possono essere gli svantaggi. Ma ripeto, il problema di fondo è dare mandato alla Commissione per negoziare, salvo poi sfiduciarla da parte di chiunque. Cioè lei dice, si poteva comunque dire alla Commissione inizia a negoziare, se poi le cose non piacevano si bloccava la negoziazione. No, ma questo è quello che è stato fatto, gli si è dato mandato di negoziare, ha portato a casa quello che volevamo, chiesto, certo, e nonostante tutto si è ritenuto di non dover ratificare. Se 38 parlamenti regionali e nazionali devono ratificare, allora è assolutamente inutile che l'Unione Europea pensi di avere un ruolo a livello globale. Chi verifica il rispetto degli standard? Vabbè, ho capito ragazzi, ma questo vale anche adesso allora, dove non è che non stiamo importando alimenti da fuori. Però mi dica una cosa, Scodomaglia, c'è un'altra obiezione, io sto facendo l'avvocato del diavolo, che arriva dai messaggi, ed è quella di dire, beh, questi accordi di solito, vabbè, c'è chi mi scrive, esistono le mazzette sui controlli di importazione. Ho capito, ma se esistono, esistono anche adesso, non è che le creiamo col CETA. Io non lo so, delle volte c'è... Vabbè, stavo dicendo un'altra cosa, l'accusa di dire ma questi sono accordi che avvantaggiano soprattutto i grandi gruppi. È esattamente il contrario, i grandi gruppi riescono ad esportare con tutte le difficoltà delle barriere non tariffarie, riescono magari anche a trovare delle forme parziali di delocalizzazione della produzione. Chi è realmente danneggiato dall'impossibilità o dalla regola troppo ristretta per esportare in Canada sono proprio le piccole e medie aziende italiane che non hanno le energie, le risorse, l'organizzazione, la logistica per arrivare su quei mercati con tutte le barriere non tariffarie in atto. Allora, dopo il traffico invece io vorrei restare italiano, nel senso che poi il ragionamento vale per tutti, ma noi in Canada abbiamo siamo l'ottavo fornitore in generale del Canada, ma siamo il primo fornitore agroalimentare europeo, 730 milioni di euro. Il Canada rappresenta il 16% di tutto il nostro export agroalimentare, c'è una quota molto grossa rispetto anche al paese, perché stiamo parlando di un sesto di tutto il nostro export agroalimentare, e siamo il terzo fornitore di vino, i secondi per i formaggi, per pasta, per le conserve di pomodoro, i primi per olio d'oliva. Ecco perché poi su questo a noi ci fa più male che ad altri. Vorrei capire come potrebbe andare a finire, e poi chiederle anche un commento invece sulla vicenda russa, come... cosa sta succedendo in Russia, perché è un po' che non ne parliamo. Intanto abbiamo sventato nuove sanzioni, però io mi raccontano molti suoi associati che i russi hanno in tutto e per tutto sostituito i prodotti agroalimentari italiani in questi anni di embargo con prodotti Italian sounding, simili a quelli italiani, fatti in Turchia, fatti in altre aree. Il problema vero sarà quando anche finirà questo embargo, come facciamo a convincerli a ricomprare la mozzarella vera, la pasta vera, e quant'altro. Dopo il traffico la risposta. Focus Economia. I wanna be free, set free. Allora, Scodamaglia, come potrebbe chiudersi questa vicenda del CETA e quanto male vi sta facendo ancora la Russia? C'è un ascoltatore che mi dice, ma insomma, basta che assaggino, immagino i russi, la differenza, basta che assaggino e capiranno la differenza. Non è esattamente così, perché nel momento in cui tu hai i migliori ristoranti in Russia, che sono tutti italiani, e questi comprano le mozzarelle fatte in Turchia, cosa che è già successa, che costeranno anche un po' di meno, hai voglia a spiegargli che devono tornare sulla mozzarella di bufala campana che costa di più, con costi anche più alti per i clienti. Comunque, Scodamaglia, prego. Allora il danno per l'embargo è chiarissimo, e come diceva lei, più dura più esponenzialmente aumenta, perché non sono soltanto i 350 milioni all'anno dei prodotti colpiti, ma questo effetto sostituzione c'è. È anche vero che i russi sono... Ma non ce l'abbiamo fatta con società che hanno sede in Serbia, mi raccontavano, no? A no, girare l'embargo, no? La stragrande maggioranza delle vere eccellenze, i DOP e IGP che si fanno solo in Italia, noi non riusciamo ad esportarli in nessun modo e siamo costantemente danneggiati. Devo dire, conoscendo la cultura e l'apprezzamento che hanno per tutto quello che di vero c'è nell'italianità, nel valore dell'italianità, è un mercato che, se le sanzioni dovessero durare ancora solo pochi mesi, si riconquisterebbe con una certa facilità. La Russia è sempre stata molto attenta a produrre commodity agricole, ci vuole lì a produrre commodity agricole, ma ripeto, se avessimo una revoca delle sanzioni nel giro di 2 o 3 mesi, con un po' di comunicazione, con un po' di attenzione, noi riusciremmo a recuperare un mercato. È chiaro che se rimanessimo chiusi ancora per degli anni, questo mercato verrebbe definitivamente perso. Le prospettive sul CETA invece, quindi Canada e Europa? Diciamo che il CETA è l'emblema, ancora una volta, di quanto beneficio possa portare alle piccole e medie imprese italiane, soprattutto del settore agroalimentare, un accordo chiuso bene a livello internazionale, un accordo che tuteli le nostre denominazioni e che non faccia scadere i nostri standard igienico-sanitari. Dobbiamo riuscire a portarlo a casa e soprattutto, una volta per tutte, dobbiamo chiedere se la Commissione è ancora un organismo che a livello internazionale ha un ruolo e una parola, oppure se dobbiamo lasciare la globalizzazione, dobbiamo spostarla dall'Atlantico al Pacifico e far gestire tutti i nostri concorrenti cinesi. Scordamaglia, dicono che lei sembra il portavoce del ministro Calenda. Perché di Calenda? Beh, Calenda ma diciamo che sono abbastanza filo industriale, nel senso, credo davvero che il futuro di questo paese sia nel rilancio dell'industria, e parlo però di piccole e medie industrie, visto che, come lei ricordava, abbiamo 54.000 aziende da rappresentare, non 54. Posso dire una cosa? E allora sarebbe la mia risposta, nel senso che per anni abbiamo detto, e purtroppo era vero, che la classe politica e anche i ministri non avevano nessun rapporto con la base produttiva del paese, con le esigenze delle piccole e medie imprese. Se c'è un ministro come Calenda, che abbiamo sempre lodato, non me ne frega nulla che diciate che io sono innamorato di Calenda, che è molto vicino alle esigenze delle imprese, ma perché dobbiamo lamentarci anche di questo? Abbiamo sempre detto che era vero, che c'erano ministri incompetenti che non sapevano neanche di cosa stavano parlando. Calenda, vuoi per la sua esperienza... anzi, soprattutto per la sua esperienza passata, conosce esattamente questi problemi, ma non è tenero con le imprese. Quindi Calenda, lo difendo io, non ha nessun bisogno, si difende benissimo da solo. È tutt'altro che tenero con le imprese, ed è giusto che sia così. Perché e anche con gli incentivi statali alle imprese, perché è quello che vi ha messo un po' in riga, lo dico in un senso, dicendo al sistema fieristico e altre cose, volete gli incentivi, fate sistema, non andate in ordine sparso. Questo devo riconoscerlo. Speriamo sia sul fronte canadese che anche soprattutto sul fronte russo, perché che ne scrivono alcuni, che pensano che possiamo vivere solo di pomodori pachini e cipolle di Tropea e di nicchia, facendo un isolamento un po' da nicchione. Io invece ci tengo che il nostro settore agroalimentare, assieme ad altri, continui a fare 132, possibilmente anche 140, anche 150 miliardi di fatturato, grazie a Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare. Allora, qualcuno mi scrive che nonostante l'embargo ci sono state tante triangolazioni di prodotti italiani che sono comunque arrivati in Russia. Sperem. Anche perché non si capisce perché la Germania va avanti con Nord Stream e con Schroeder e con la Russia, e noi dobbiamo prendercela in quel posto per via delle sanzioni. È una cosa strana sta qua. Allora, io non riesco ancora a introdurre, anzi introduco Luca Davide, è l'unica cosa che faccio perché ho GR24. Buonasera Luca. Buonasera a tutti, buonasera. Monte dei Paschi, alle 19 dovremmo capire qualcosa di più. Ma tu sai già tutto, no. E sai anche perché hai guadagnato anche oggi il 28,28%. Dopo il GR24, la risposta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Good morning. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì, e siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo del caso di borsa, che lo è ormai da alcune sedute. Monte dei Paschi di Siena più 28,28%, il titolo ha raddoppiato il suo valore dal lunedì scorso, in una settimana è tornato a 34 centesimi di euro, è tornato a 1 miliardo sostanzialmente di capitalizzazione, è tornato ai livelli di 3 mesi fa, con un enorme guadagno chiaramente in chi ha comprato, diciamo, da lunedì in poi. Luca Davi, alle 19 dovremo capire come è andato questo consiglio di amministrazione. Domani c'è la conferenza stampa per il piano industriale. Al di là di moltissima speculazione, su cosa sta scommettendo la borsa? Su un piano industriale molto duro, di riduzione di sportelli, dipendenti, che vada a incidere anche sulla redditività? Però sullo sfondo resta sempre il tema dell'aumento di capitale. Sicuramente ci sono tanti elementi di cui il CDA oggi dovrà dare l'avallo, e attendiamo dopo le 19, insomma, che il CDA alzi il velo su questo piano, che ha più gambe, perché da una parte bisognerà approvare i conti dei primi 9 mesi dell'anno, che evidentemente dovranno mettere in luce un aumento degli accantonamenti, quindi realisticamente, insomma, conti in rosso, ma questo forse è il meno. Ci sarà un piano industriale da varare, un piano che è già stato più o meno intuito, insomma, dal mercato. Sarà un piano basato su indicazioni conservative, quindi tassi bassi a lungo. Ci saranno sicuramente degli esuberi, ci sarà un piano di cessioni, ci sarà un focus forte sui costi e ci sarà prevedibilmente, questo è l'auspicio, insomma, comunque un piano, un ritorno all'utile. Il tema vero è quello dell'assemblea, e quindi ovviamente a questo è legato anche l'aumento di capitale. Perché? Perché il 24 novembre realisticamente dovrebbe tenersi appunto l'assise dei soci, che dovranno dare l'ok a una ricapitalizzazione da 5 miliardi, che è quella che servirà sostanzialmente a cedere oltre 27 miliardi di sofferenze, che è il valore che è stato concordato con la BCE. Però qua nasce il problema: come la banca può arrivare a recuperare questi 5 miliardi? Probabilmente, lo vedremo tra poco, ma la banca sceglierà sostanzialmente di tenersi le mani libere, cioè non darà indicazioni nette su come riuscire a raccogliere questi soldi sul mercato. Fino ad oggi abbiamo sentito tante indicazioni, c'è la possibile intervento del fondo del Qatar, Abu Dhabi, l'ultima, e probabilmente anche su queste voci si è mosso il titolo in questi giorni, l'ultima anche addirittura la People's Bank of China, che potrebbe essere tra i soggetti interessati a partecipare. Insomma, si parla di un cosiddetto anchor investor, un gruppo di investitori interessati a versare in maniera sostanziosa questi soldi. Lo vedremo, si tratterà di capire nelle prossime settimane se la banca riuscirà a coagulare questo gruppo di investitori, e qua si gioca la partita. Cioè, si tratta di capire se la banca avrà la forza, la credibilità, anche in virtù del piano industriale che appunto il CDA sta per varare, se avrà la credibilità per riuscire a convincere questi investitori a mettere denaro fresco nella banca. E qua bisogna capire anche in virtù di quello che, come dire, il mercato pian piano inizierà a capire, magari degli alleati, magari da una parte la conversione dei bond subordinati, che probabilmente sarà parte di questo piano per trovare nuovo capitale. Insomma, vari pezzetti di un puzzle che si spera poi portino davvero a raggiungere, insomma, questa somma finale di 5 miliardi. Per così dire, si tratta, insomma, di una delega ampia, una delega per un piano flessibile, un aumento di capitale flessibile, che ovviamente dovrà essere in qualche modo sviluppato giorno per giorno, ma senza poi potersi concedere fin troppo tempo. Perché? Perché la BCE ovviamente marca stretto la banca, non vuole accettare sostanzialmente che si vada oltre l'anno per ristabilire, certo, i requisiti prudenziali, e quindi preme stretto ovviamente l'istituto. Dall'altra parte c'è un'incognita, e anche questo sarà un tema di cui dovremo verificare sostanzialmente gli esiti nelle prossime settimane, che è la partecipazione di Corrado Passer eventualmente e dei suoi investitori, perché si è fatto gran parlare di questi fondi americani o hedge fund che potrebbero da parte loro contribuire. Diciamo che le voci che sono circolate, oltre a quelle appunto del piano di Corrado Passera, ha tirato in ballo anche George Soros, certo, con un miliardo che potrebbe mettere in aumento di capitale, un altro potrebbe essere John Paulson, re degli hedge fund americani, e poi i fondi del Qatar, che potrebbero Abu Dhabi che potrebbero portare 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro. Alle 19 avremo qualche dettaglio in più, Luca? È sicuro che avremo un piano, un dettaglio in più sul piano industriale. Il piano industriale dovrà essere comunicato però ai sindacati a breve. Come tu ricordavi, sul... Per quanto riguarda l'aumento di capitale, realisticamente la banca non si sente ancora di dare un'indicazione netta su quelli che potrebbero essere i capisaldi. Certo, ci sarà un'indicazione di massima, ma non probabilmente sulle cifre, anche perché sarebbe un po' come stringersi a un palo e già definire a partire da oggi quello che potrebbe invece cambiare, certo, nei prossimi mesi. E in fin dei conti, diciamolo chiaramente, alla BCE non interessa come la banca, come dire, troverà questi soldi, l'importante è trovarli. Sì, non interessa chi metterà i soldi, vuole avere certezze e garanzie che l'aumento di capitale che ha richiesto la BCE stessa, esattamente, vada in porto. Si farà. Grazie intanto a Luca Davi. Grazie. Invece a voi. Resto in tema di borsa e saluto Andrea Fontana di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Perché al di là del Monte dei Paschi, l'altra notizia di oggi riguarda Unicredit più 4% e Popolare Emilia Romagna più 3,40%. Sì, per quanto riguarda Unicredit ha sicuramente sfruttato un ottimo momento delle banche, ricordiamo che dall'inizio di ottobre le banche quotate a Piazza Affari hanno guadagnato oltre il 15% considerando l'indice complessivo degli istituti quotati, ma oggi mentre quando la banca saliva del 2% è arrivata anche una dichiarazione di un socio forte come Leonardo Del Vecchio, titolare di oltre 2% del capitale, che ha mosso dei dubbi sulla necessità di un aumento di capitale per Unicredit pur giudicandolo probabile, e inoltre ha giudicato come una cosa positiva la cessione di una parte, se non altro, della società di gestione del risparmio, cioè di Pioneer, per il quale ricordiamo è in corsa sì, Poste Italiane insieme alla Cassa Depositi e Prestiti e ad altri istituti del settore. Per quanto riguarda invece Popolare dell'Emilia Romagna, il titolo ha guadagnato oltre il 3% e qui l'interesse riguarda soprattutto il credito valtellinese, perché sono tornati ormai da qualche giorno che si parla di contatti tra i due istituti, contatti che potrebbero coinvolgere, secondo qualche indiscrezione, anche Unipol, perché il gruppo finanziario bolognese è interessato da tempo a trovare una nuova collocazione per Unipol Banca, i suoi asset bancari. Qualcuno dice che Unipol starebbe guardando da vicino, lo dice Sole 24 Ore, al dossier dei Monte dei Paschi, altri invece parlano appunto di un possibile coinvolgimento in un asse che va tra la Popolare di Emilia Romagna al credito valtellinese. E quindi sono per inciso il Creva l'ha guadagnato il 3,40% anche oggi. Esattamente, anche lui è molto comprato, la scorsa settimana ha avuto performance importanti, spesso anche da migliore del listino, e oggi hanno guadagnato oltre il 2% anche Unipol e Unipol Sai, perché un riassetto di Unipol Banca, lo ricordiamo, Cimbri, l'amministratore delegato l'ha detto più volte, potrebbe poi condurre a un progetto di fusione tra Unipol, cioè la holding del gruppo finanziario, e Unipol Sai, ovvero l'istituto che raccoglie le attività assicurative. Vorrei chiudere con Luxotti, che visto che poi sono usciti i conti, più 1,70%, però voglio citare anche altri titoli: Exor più 2,20, Unipol appunto più 2,16, Pop Milano più 2,11, Intesa San Paolo più 2,1, Banco Popolare più 1,90 e poi dicevamo di Luxottica. Sì, per Luxottica si tratta di un rimbalzo in attesa appunto dei conti, che più che altro dei conti del fatturato, che sono usciti a mercato chiuso e che hanno evidenziato nel terzo trimestre un incremento dei ricavi del 3,2% a 2,22 miliardi di euro, quindi indicativamente in linea con le attese, ed è arrivata una conferma di quelli che sono gli obiettivi del 2016. Ricordiamo però che Luxottica venerdì era stata pesante soprattutto per l'effetto Francia, ovvero l'effetto dei conti della società di lenti per gli occhiali Essilor. Allora, altri titoli oltre a quelli ricordati, bene, anche Fiat Chrysler più 1,70, Mediaset più 1,40, Generali più 1,20 come Azimut e Poste Italiane. Negativa Campari del 2,20, Ferragamo del 1,50, A2A del 1,30, Snam dell'1,15%, migliori e peggiori, oltre a Monte dei Paschi ovviamente che è il migliore, Stefanel più 16%, CHL più 10,70, Digital Bros più 8,60, Edes più 8,5, fronte opposto, Novare meno 13,40, SNAI meno 5,90, gruppo Waste Italia meno 5,70. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, traffico, e poi cerchiamo di capire come la lotteria, grande passione degli italiani, potrebbe aiutare a combattere l'evasione fiscale. Focus Economia. :18:19. Allora, ci occupiamo di fisco e di Portogallo. No, adesso non sono ubriaco, nel senso che è stato il Portogallo il paese a noi più vicino. Ricordavo in apertura del programma che in Cina già da sempre, quando chiedi lo scontrino fiscale, ti danno anche un gratta e vinci per incentivare appunto i cinesi a chiedere lo scontrino fiscale. Qualcuno mi scrive che anche l'Argentina ha sperimentato la cosa, però il caso più vicino, il caso studiato da chi fa anche consulenza sul fronte economico-giuridico alla Presidenza del Consiglio, è stato proprio quello portoghese. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento, il professor Andrea Parolini, che è docente di diritto tributario all'Università Cattolica Piacenza, membro del VAT Expert Group e appunto che fa anche da consulenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buonasera Parolini. Buonasera dottor Baresoni. Allora, è sua, diciamo, il copyright, si può dire così, l'idea che abbiamo letto poi nel fine settimana della cosiddetta lotteria fiscale, che è una cosa un po' diversa dal terno all'otto che rappresenta il nostro fisco, per imbroccare esattamente la dichiarazione giusta, lo dico subito. Perché questo? Perché la lotteria con degli scontrini contro l'evasione fiscale, un'estrazione al mese, premiati anche i negozianti. Allora, il caso portoghese, se ho ben capito Parolini, in un paese in cui, insomma, l'evasione fiscale non è da poco, e c'è stato tutto un tentativo da parte del governo portoghese di stimolare i cittadini a richiedere la fattura, l'elemento fiscale, diciamo, come incentivare il consumatore a chiedere fattura o il documento alternativo per ogni acquisto di beni e servizi. Prima hanno introdotto una detrazione dell'IVA a carico dei consumatori, quindi se tu la richiedevi potevi scaricare un po' di IVA, ma non serviva. A un certo momento, nel 2014, si inventano la lotteria Lucky Invoice, che lei ha studiato per capire se si potesse anche riproporre in Italia. Quali sono le caratteristiche, ma soprattutto che esiti ha avuto? Beh, insomma, no, io non sono, diciamo, lo spin doctor dell'idea italiana, ho semplicemente studiato, perché come studioso di diritto tributario tutti questi fenomeni sono di interesse. Sì. Diciamo che l'esempio portoghese si basa sulla realtà, insomma, che il modello repressivo è non sempre sufficiente per eliminare l'evasione fiscale e quindi bisogna anche utilizzare un sistema di tipo collaborativo. E appunto il Portogallo, in realtà, prendendo ispirazione anche da altre esperienze, dal 2014 ha creato appunto questo sistema della Lucky Invoice. Esistono due modelli teorici: uno è quello del gratta e vinci che citava lei, che viene utilizzato in Cina e in Brasile, è quello dove sostanzialmente per ogni spesa che viene effettuata viene, diciamo, emesso un coupon che partecipa a una lotteria. I dati che vengono dal Portogallo sono drammaticamente positivi, dico drammaticamente perché in quanto studioso del diritto tributario dovrei dire che questi sistemi non sono i migliori, ma sul piano pratico sono stati emessi 200 milioni di coupon il primo anno, 2014, 300 milioni di coupon nel 2015 e c'è un tendenziale di 5 milioni di coupon, che trattano quindi più o meno 5 miliardi di spesa nel 2016, quindi un dato molto importante. Cioè da 2 miliardi a 5, ho capito bene? Da 2 miliardi a 5, però, sì, e sostanzialmente... Il Portogallo non penso che sia, diciamo, un modello, con massimo rispetto per i portoghesi, modello scandinavo di fedeltà fiscale, assomiglierà più a noi forse, no? Ma sì, anche se devo dire la verità, noi siamo molto peggio del Portogallo. Bene, se vediamo gli ultimi, piacere. Se vediamo i dati del VAT gap, diciamo che in termini percentuali quello italiano si attesta intorno al 28%, al 2014 sono gli ultimi dati disponibili, mentre quello portoghese si attesta intorno al 13%, quindi loro è meno della metà. Però la cosa che colpisce è che nel Portogallo, proprio nel 2014, l'anno in cui è stata introdotta la fattura da sorte, è stato per il primo anno in cui il VAT gap è sceso di 3 punti percentuali in un unico anno. È difficile dire se è direttamente connesso. Certo che le autorità fiscali portoghesi dicono che è un enorme successo. Cioè, pensate che appunto i tagliandi sono passati da appunto 207.000 a 511.000, da 2 miliardi a 5 miliardi e 100. Questo, voglio chiarirlo a tutti, riguarda però la possibilità anche per me di detrarre alcune spese, no? Sì, in Portogallo hanno fatto un'introduzione, diciamo, per fasi. All'inizio si partecipava solamente alla Lucky Invoice. Nel 2016 invece, se una persona vuole invocare una situazione personale in dichiarazione dei redditi, deve possedere il relativo coupon, quindi deve il sistema, diciamo il sistemone centrale. Ah, ecco, cioè se tu vuoi portare a detrazione devi avere il coupon. Ma mi scusi, per curiosità mia, ma che cosa mettevano in palio i portoghesi? Cioè, per capire anche cos'è. Beh, il Portogallo aveva un sistema un po' naif, nel senso che aveva all'inizio delle lotterie, delle estrazioni mensili tributarie, e all'inizio mettevano in palio delle auto tedesche. E invece dal 2016 sono buoni dello Stato che variano fra i 35 e i 50 mila euro a seconda del tipo di estrazione. Sì, anche perché magari uno l'auto non ne ha bisogno, ce l'ha già, non la vuole comprare. Non... Ma guardi, noi fiscalisti siamo noiose. La dottrina di tributarista portoghese all'inizio diceva che il premio poteva addirittura eccedere le possibilità di mantenere l'auto, che quindi in realtà poteva essere. Vabbè, un quello premio, mi sembra però minore, cioè uno casomai la rivende. Non è quello. Però senta, ma da quello che lei ha capito, che lei dice: no, non sono lo spin doctor del governo, ma si farà, c'è una seria intenzione dell'esecutivo di andare avanti su questa forma di lotteria fiscale? Ma guardi, ci sono delle ipotesi ormai da un po' di tempo. C'è stato un intervento molto recente del vice ministro Casero che ha annunciato questa misura, e prevedendo peraltro un ingresso di questa misura per fasi. Ho visto già che ci sono delle critiche su questa misura, alcuni dicono che lo Stato stimolerebbe il gioco d'azzardo. A me sembra un'ipotesi un po' bizzarra, perché non credo che la gente vada a comprare le merendine per avere il premio dallo Stato, cioè sarebbe come dire un'ipotesi un po' fantozziana, quindi non è che secondo me il problema è quello. Io ritengo che probabilmente il modello repressivo da solo non basti, ecco. Sì, poi devo dire che molti ascoltatori mi dicono sì, ho capito, però poi questa maggiore, o questi potenziali maggiori incassi fiscali andranno a ridurre le tasse. Guardate, questo intanto non lo posso chiedere a Parolini, ma devo chiedere al governo. Dopodiché o vanno a ridurre le tasse o aumentano misure a favore dell'economia, nel senso che l'importante, cioè, è che non restino semplicemente a, o magari permettono di ridurre un po' il deficit, un po' il debito, e liberare risorse per altro. Io do un dato: il VAT gap in Italia nel 2014... VAT gap, lo spieghiamo bene, vuol dire il gap sull'IVA. L'IVA non incassata, che potenzialmente doveva essere incassata, non è stata incassata dallo Stato, è pari a 37 circa miliardi di euro, 36 miliardi 855 milioni. Quindi è un importo enorme. Evidentemente, se solamente questa misura potesse stimolare diciamo anche solo una decrescita del 10-15%, avrebbe risultati fenomenali, anche perché sarebbero strutturali, non scenderebbero più. È vero, non sarebbero una tantum. E tra l'altro su questo io dico, quindi non stiamo parlando di una pressione fiscale, stiamo parlando della differenza tra l'IVA versata e l'IVA che avresti dovuto versare a parità di attività economica, e per cui c'è già un'attività economica che si è svolta, e 36 miliardi sono molto di più di qualunque manovra finanziaria, solo una manovra finanziaria e mezzo. Grazie anche a Andrea Parolini. Io tutto potevo immaginare, ma non si smette mai di imparare, tranne che avremmo preso lezioni sul fisco anche dal Portogallo, va bene così. Grazie appunto a Andrea Parolini, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.